questa fosse l'ultima riflessione mono comunicativa, che ci fossero tante persone che riflettono sui brani del Vangelo. Verrà il tempo. Dunque, non è una cronaca, è il racconto coinvolgente, una leggenda, quella dei Revagi, ricca di messaggi. Chi scrive redige questo racconto, ma ha alle spalle la conoscenza di tante storie simili nella letteratura religiosa del tempo. Soprattutto questo racconto è redatto alla luce di tutto quello che fu la vita, le parole, le azioni, le testimonianze di Gesù. Ma detto questo, cioè, non so quanto sia vero la storia dei Re Magi, è un racconto, insomma, no? Cioè, ma detto questo, è importante chiederci che cosa ha a che fare con la nostra fede in Gesù Cristo. Quali provocazioni, quali suggestioni, appunto, per la nostra vita. Provo a dire. Innanzitutto, al centro del brano stanno i cosiddetti magi, a cui fanno da controfigura i capi del popolo, i religiosi, il re Erode. Gli astrologi erano babilonesi, cioè si tratta di saggi, di uomini di scienza che cercavano delle rivelazioni sui segreti della storia. Nulla nel testo indica che si tratti di re. Appartiene ai racconti, fossero i re magi. Quel che è certo è che erano pagani, gnostici, cioè quelli che o si cade nel concreto fisico o mentale, oltre la ragione, oltre il pensiero, se non si arriva non c'è niente. Sono invece dei cercatori di verità. La loro presenza ha un duplice significato. Gesù, rifiutato, è riconosciuto da stranieri, avanguardia, prefigurazione di quello che tutta la Bibbia viene considerata la conversione delle nazioni. In secondo luogo, nelle parole dei magi e nelle citazioni bibliche, viene sottolineata la portata politica della nascita di Gesù, anche se questa nascita è priva di segni esteriori, di potenza. Comunque c'è chi veglia su di lui. Tanto che i magi obbediscono alla voce, tra virgolette, divina. E l'esempio è che siano degli obiettori di coscienza, cioè non obbediscono al potere. Per altra via andarono per la loro strada, si riprendono il loro cammino. Vorrei fare però una piccola carrellatina dei personaggi. Per esempio, Ci sono i sacerdoti che conoscono il tempo e il luogo della nascita del Messia. Infatti il re Erode li chiama a consulta, ma non si muovono. Anzi, prenderanno una posizione sempre più ostile. Ci sono i gestori delle istituzioni sacre, quelle del Tempio, che presumono, qui richiamo l'attenzione perché è di attualità, presumono di aver catturato Dio entro i propri schemi. Poi le frasi ce le ricordiamo: in nome di Dio combattiamo la guerra santa, in nome di Dio, Dio lo vuole, poi lo si chiamerà Allah, lo si chiamerà. Non c'è nulla da attendere, nulla da cercare, basta solo obbedire, dicevano. C'è Erode che si mostra interessato al Messia, però dentro nel gioco del suo potere. I magi sono degni di ammirazione non per i doni che portano, se li hanno portati. Questo interessa la nostra civiltà consumistica, ma perché sono uomini, questi magi, in ricerca, sottolineo, felici di seguire una stella che brilla, se posso citare uno scrittore che si chiama Nietzsche, li accuserebbe di fuggire dalla realtà, di nascondere la testa sotto la sabbia delle stelle. In verità portano la testa alta e seguono quella realtà di cui gli uomini hanno più bisogno, l'utopia. Io tradurrei meglio la speranza. Detto tutto questo, una provocazione, perché questa festa, che io la chiamerei la cattedrale delle feste, c'è una provocazione, l'interrogativo: ma perché Dio ha voluto rivelarsi, Epifania, agli uomini nella figura di Gesù di Nazareth? Due suggerimenti per riflettere. La domanda è: come amare Dio se l'amore ha bisogno di un volto? La nostra vicenda umana dice che la scoperta del senso della vita, la scoperta e l'esperienza del mondo, ha preso avvio dall'incontro con il volto della nostra madre. È nell'incontrarsi dei volti che abbiamo imparato, impariamo a conoscere che cos'è l'amore o il non amore, lasciarsi amare o rifiutare l'amore. Ora, anche l'incarnazione, l'assumere da parte di Dio un corpo umano, ha voluto significare che Dio stesso non poteva restare amore senza diventare volto. Allora rifletto a conclusione. Al termine del prologo di Giovanni, indica in Gesù colui che ha raccontato e ha illustrato Dio. Gesù è l'esegesi, proprio l'analisi più accurata vivente del Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che ha rivelato, Lui che ha rivelato Dio. Deduco, la nascita di Dio in Gesù, che non è l'inviato che va a soddisfare, anche qui, a soddisfare con il suo sacrificio sulla croce un credito dovuto al Padre a causa dei peccati degli uomini. Non è venuto per soddisfare col suo sacrificio. Non me ne importa, dirà un giorno. Il profeta dice: Dio rifiuta i sacrifici di questo e di quest'altro. E sono il volto delle persone che mi interessano. Quindi la nascita di Gesù è l'inviato, perché la nascita di Dio in Gesù, nella piena condivisione della nostra umanità, è non solo l'incarnazione di un amore, ma anche la rivelazione di un modo divino di amare, un modo che mantiene, parlo per me, la mia libertà di figlio, mi cammina accanto e mi comunica la qualità della vita che è proprio del Padre. Detto questo, continuate voi a capire che cos'è l'Epifania. La festa della rivelazione. Gloria a Dio nell'alto di Dio.